Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, facciamo ancora in tempo a dirci buona Pasqua. Io lo faccio con i versi sulle donne che scoprirono il sepolcro di Cristo vuoto. Quali parole scambiate tra il figlio e il padre dopo il silenzio del grido? È un segreto che rimane per tutti, anche per le donne piene di spavento, che fuggirono via dal sepolcro vuoto, con negli occhi lo stupore, per non aver visto chiusa la porta. Come avvenne e in quale momento l'eternità prese il corpo esanime nella corruttibilità del tempo? Le donne non lo dicono, vediamo, solo gli occhi loro che corrono, sospese tra la terra e il cielo. Si fanno angeli per gli apostoli, ieri come oggi, per prime ad osare. E autore di questi versi un prete, anzi un arciprete, l'arciprete di Melara in provincia di Rovigo, Daniele Donegà, che è autore di Gesù di Nazareth, la luce vera, pubblicato da Cantagalli, 64 pagine, 5 euro. Qua troviamo 40 poesie sugli ultimi giorni, le ultime ore anche di Gesù, fino poi al trionfo della resurrezione e dell'ascensione. Le poesie si aprono con un versetto evangelico di riferimento all'evento che, più che narrato, viene contemplato con fede e riproposto alla nostra meditazione. Ma chi erano queste pie donne che andarono al sepolcro di Gesù e lo trovarono vuoto? Sentiamone il nome in questo brano che adesso vi propongo. Intanto gli angeli cantavano l'inno di benedizione che i serafini cantano all'alba del giorno del Signore sopra il suo corpo e il suo sangue. E nel giorno del Signore, così presto che era ancora buio, le sante donne si recarono al sepolcro. Questi sono i loro nomi: Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo, quella che Gesù aveva liberato dalla mano di Satana, Salomè la tentatrice, Maria, quella che aveva servito Gesù, e sua sorella Marta, Susanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, che aveva rifiutato di condividere il talamo del marito, Berenice, quella che a Cafarnao Gesù aveva guarito dal flusso di sangue, la vedova Lea, quella di cui a Nain Gesù aveva resuscitato il figlio morto, e la donna che era stata peccatrice e a cui il Signore aveva detto: «I tuoi molti peccati ti sono rimessi, vai in pace». Queste donne stavano nell'orto del giardiniere Filogene, il cui figlio era stato guarito dal Salvatore, quando scese con Simone e gli apostoli dal Monte degli Ulivi. Il passo che avete ascoltato è tratto dal libro della risurrezione di Cristo dell'apostolo Bartolomeo e si tratta quindi di uno scritto tratto dai cosiddetti Vangeli apocrifi, gli scritti sulla vita di Gesù e di Maria, che sono sempre stati tenuti in disparte dall'insegnamento ufficiale della Chiesa, ma che rappresentano una miniera di notizie e di curiosità. Per esempio, proprio dagli apocrifi che abbiamo tratto la tradizione del bue e dell'asino presenti nella grotta di Betlemme, e da questa tradizione conosciamo il numero e i nomi dei re magi. Rivaluta in qualche modo questi testi Vito Mancuso, il teologo spesso critico con alcune posizioni dottrinarie ufficiali della Chiesa, nel libro La vita segreta di Gesù, i Vangeli apocrifi spiegati da Vito Mancuso, è pubblicato da Garzanti, 240 pagine, 16,40 euro. I brani dei Vangeli apocrifi sono stati tradotti per questo libro da Lorena Paladino. Apocrifo significa nascosto, infatti questi testi non ebbero riconosciuto una provenienza apostolica e quindi furono esclusi dalla lettura nelle celebrazioni liturgiche. Sono numerosi, Mancuso ce li enumera, si tratta di circa 30 che si riferiscono al Vecchio Testamento e molti altri relativi al Nuovo Testamento, 30 sotto forma di Vangeli, 6 di Atti, 7 di Lettere, 6 di Apocalissi e 20 circa dedicati al tema della morte della Madonna e alla sua assunzione in cielo. Alcuni sono molto vicini al Vangelo ufficiale, alcuni sono decisamente leggendari, altri, ci spiega Mancuso, hanno avuto una derivazione gnostica. E qui troviamo 12 apocrifi. Questo di Bartolomeo, che, dal quale ho tratto il brano che avete ascoltato poco fa, è un Vangelo particolarmente venerato presso la Chiesa d'Egitto. Si tratta in realtà di un'opera del VII secolo che riprende molti elementi della cultura egiziana tradizionale, tradizionale, tra l'altro, la stretta vicinanza tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Vito Mancuso è coautore di un libro spiritual alpinistico scritto con Nives Meroy, che è una grande scalatrice. Infatti ha scalato senza ossigeno 11 sulle 14 cime esistenti sopra gli 8000 metri. È abituata quindi a imprese estreme. Molto più semplice dal punto di vista atletico e alpinistico è l'impresa della quale si parla in questo libro, ossia l'ascensione sul Monte Sinai. Il libro si intitola Sinai, la montagna sacra, raccontata da due testimoni d'eccezione, pubblicata da Fabbri Editore, 176 pagine, 16,50 euro. Non si tratta di un libro a quattro mani, ma di un libro diviso in due parti. Nella prima è la Meroy che parla, raccontando la sua passeggiata sul Sinai e intercalando quest'ultima avventura con alcune delle sue precedenti ascensioni, fino a quest'ultima, che certamente non ha nulla delle solitarie spedizioni compiute dall'autrice. Sul Sinai, infatti, si sale in centinaia di persone e sono tutte attratte dalla fama del luogo, dal panorama che è possibile cogliere alle del sole. L'insolita folla delle 500 persone circa che con lei e con il compagno sono salite sul Sinai fa riflettere l'autrice, che osserva come nel sottofondo rarefatto del vento abbia ascoltato salire le voci, le risa, i canti delle persone e nei lineamenti di quei volti, che unici e irripetibili raccontavano ciascuno la propria storia e la ricchezza del cielo nero pulsante, si specchiava nel brulicare di tutte quelle facce, lingue, culture e religioni, nell'armonia di quella moltitudine variopinta che si era unita nel cammino. La seconda parte del libro dunque è affidata a Mancuso, che invece ci presenta il Sinai nella sua veste, per così dire, di montagna sacra per l'ebraismo e il cristianesimo. Naturalmente non è questa l'unica montagna sacra, e Mancuso ci ricorda anche quelli delle altre religioni. Tra l'altro il Sinai ha dato vita anche a qualche equivoco che permette al teologo qua di polemizzare addirittura con Benedetto XVI, perché Mancuso non accetta l'interpretazione di Benedetto XVI secondo il quale il Sinai e il Monte Horeb sarebbero due monti diversi, per lui sono la stessa montagna. E poi ci sono, descritti da Mancuso, tutti i fatti che hanno visto il Sinai protagonista, a partire da quello forse più celebre, ossia la proclamazione dei 10 comandamenti. Mancuso allora spiega quale significato assuma l'ascensione sul Monte Sinai e scrive: i principali temi e simboli teologici legati al Monte Sinai sono l'alleanza, il fuoco, la legge, il monte, la nube e la trasfigurazione. È attorno ad essi che ruota il rapporto con Dio, come viene descritto dalle pagine bibliche. Il che significa che un'esperienza spirituale autentica deve presentare varie caratteristiche che qui Mancuso precisa, concludendo che insomma l'ascesa rappresenti il simbolo della vita spirituale autentica, così scrive Mancuso, intendendo con essa quella modalità di essere religiosi che non è funzionale al potere, neppure a quello ecclesiastico, ma cerca solo la verità, il bene, la giustizia. Con la resurrezione di Cristo inizia in qualche modo la storia del cristianesimo, le cui origini ricostruisce il libro di uno storico del cristianesimo all'Università di Ginevra, Enrico Norelli. Il libro si intitola La nascita del cristianesimo, è pubblicato dal Mulino, 280 pagine, 22 euro. Individuare la vera e propria origine, il fatto che ha dato vita al cristianesimo, è molto difficile, forse impossibile, a partire dalla considerazione, ricorda Norelli, se questa religione nasca con Gesù, ovvero dopo di lui. La nascita del cristianesimo, aggiunge, non è la rapida uscita alla luce di un individuo già più o meno formato, ma un complesso intricato e lungo di sviluppi, esperimenti, incontri, scontri, negoziazioni culturali, sinergie, operazioni ideologiche, affermazioni di potere. E questi passaggi il libro cerca di spiegare in una prospettiva rigorosamente storica, non di carattere teologico. E il volume si conclude proprio con la formazione e la formalizzazione dei quattro Vangeli canonici e delle ragioni che portarono al riconoscimento esclusivo di questi quattro testi. Insomma, la storia del cristianesimo, la storia delle origini del cristianesimo, rappresenta un grande slancio missionario dei primi discepoli di Gesù, al quale, secondo l'autore, la risurrezione offrì la convinzione che il messaggio di Cristo fosse destinato anche ai non ebrei. Si apriva così, aggiunge l'autore, un campo vastissimo di missione e l'energia e la determinazione di un Paolo di Tarso testimoniano della sua ansia di portare il Vangelo in tutto il mondo in un tempo che credeva limitato a pochi decenni. La rete di chiese costituita da Paolo, ma anche dagli altri portatori del messaggio, formò la struttura fondamentale che avrebbe consentito ai credenti in Gesù di continuare a esistere, anzi a svilupparsi anche dopo la morte della prima generazione. E a questo punto... Il confettino di Carmen Palomo, vi segnalo Raccontami la Bibbia, tradotto da Simona Flotta per le Paoline, 520 pagine, 10 euro, in cui troviamo un primo strumento per accostarsi con testi semplici e tante illustrazioni alle pagine più significative del Vecchio e del Nuovo Testamento. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Il 25 aprile celebreremo la festa della Liberazione. In questa occasione vi voglio segnalare alcune opere di carattere narrativo, storico, documentario su quella pagina, su quel momento importante della storia d'Italia. Cominciamo con il libro di Mirella Serri, scrittrice, docente universitaria, che ha pubblicato con Longanesi Un amore partigiano, storia di Gianna e Neri, eroi scomodi della Resistenza, 220 pagine, 16,40 euro. Protagonista della storia vera è una donna, Gianna, il nome di battaglia di Giusi Twissi e del suo compagno Neri al secolo, Luigi Canali. Questi erano i nomi che avevano assunto come partecipanti alla Resistenza. La Gianna si trovò a condividere alcuni passaggi drammatici di quelle settimane, di quei mesi, in particolare durante la fuga di Claretta Petacci, ma ormai anche per lei, per la Gianna, il destino era segnato. Infatti, dopo essere stata imprigionata e torturata dai nazifascisti, lei e Neri, appunto, erano stati sospettati di tradimento dai gappisti, l'espressione militare della resistenza comunista, ed erano stati condannati a morte. Una sentenza che fu puntualmente eseguita il 7 maggio del 45 per Neri e il 23 giugno dello stesso anno per Gianna, che morì poco più che ventenne. La vicenda, ci ricorda la Serri, è rimasta oscura, sepolta negli archivi, e ha fatto cadere nel dimenticatoio due figure di partigiani coraggiosi, eliminati dal loro stesso partito e quindi straziati anche, soprattutto la donna, per quello che apparve, soprattutto a lei, appunto, un incomprensibile tradimento da parte del partito al quale aveva regalato la propria esistenza. Un romanzo di ambientazione resistenziale in Val Camonica è la prova di un quasi esordiente Ernesto Masina, che si intitola L'orto fascista, è pubblicato da Pietro Macchione, 212 pagine, 15 euro. Il fascismo qui è ancora saldo al potere, sono gli ultimi mesi, e in un piccolo centro della valle viene ordito un complotto per dare un segnale di insofferenza nei confronti del regime, dei fascisti locali e dei tedeschi. E la preparazione di questo atto dimostrativo assorbe la piccola comunità, dando l'opportunità di presentare una galleria di piccoli personaggi di provincia che sembrano riecheggiare certi tratti di Piero Chiara. Un altro romanzo su un ex resistente, su un ex partigiano, è Il taccuino di lepre di Francesco Paloschi, è pubblicato da Dedalo, 170 pagine, 14 euro. Lepre era il soprannome di un partigiano che da giovane era famosissimo per la sua velocità leggendaria, ma purtroppo una ferita di guerra elimina questa sua virtù e troviamo il protagonista ormai anziano e logorato anche dalla delusione oltre che dalla sofferenza fisica. Lo confortano le letture scientifiche e la compagnia di un taccuino che, da appunto dal titolo al libro, che lo accompagnerà negli anni che segneranno la trasformazione del Nord-Est, dove si svolge il libro, segnato da molte trasformazioni politiche e sociali e da alcuni eventi drammatici come la frana del Vajont o il terremoto in Friuli. È un mondo dal quale, appunto, lepre si sente sempre più lontano, sente ancora più remoti gli ideali giovanili, come esprimono le righe che adesso vi propongo, nelle quali il protagonista affida proprio al libro le proprie residue speranze. Soltanto con i libri Rifletteva spesso, restando assorto dietro il banco senza che nessuno si facesse avanti per un prestito. Solo con questi si sarebbe potuta combattere una nuova resistenza, una nuova rivolta morale contro il putridume in cui si era immerso il paese, degradato, omologato, depredato, con la complicità dei politici e della televisione. La sua fortuna e di quelli che, come lui, ancorati alla cultura per mestiere o per vocazione, sapevano ancora riconoscere le impronte dei maestri, era di trascorrere le giornate al riparo di quei ricettacoli di saggezza eterna che erano i libri. Sentiva forte alle sue spalle, aleggiante tra gli scaffali, il sostegno dei tanti angeli custodi con ali di inchiostro e cellulosa, l'eredità incancellabile di un passato al quale rivolgere domande e ai cui valori si doveva attingere. Scopo della cultura era diagnosticare il presente per porre un argine contro i suoi virus. La biblioteca cittadina rappresentava sempre, nell'ardua impresa di questa lotta, il baluardo più alto, ancorché nelle sue stanze si infiltrassero tutti quei figli rammolliti della modernità. Infine vi presento due ricostruzioni storiche che faranno discutere. La prima è quella di Giampaolo Pansa, Bella Ciao, Contro storie della resistenza, pubblicata da Rizzoli, 430 pagine, 19,90 euro. Il tema non è nuovo per Pansa, che vanta anche con una certa fierezza le accuse di revisionismo che gli sono state rivolte. Per Pansa questa non è un'offesa, bisogna rivedere e ristudiare la storia, ma revisionismo, scrive, è diventato sinonimo di tradimento. Oggi indica un testo, scrive Pansa, meritevole di scomunica. L'accusa di revisionismo, aggiunge, si spreca per tutti i testi che non seguono il codice dei gendarmi della memoria resistenziale. E ricorda anche l'autore che queste tesi non sono delle tesi nuove, perché fin dal 1959 egli aveva avuto occasione, prima in un incontro pubblico nel quale era stato già criticato per le posizioni assunte, dove venne difeso soltanto da Ferruccio Parri, e poi in un articolo per una rivista scientifica aveva cominciato a esprimere i propri dubbi sulla versione ufficiale che già da allora si cominciava a consolidare. E in questo libro troviamo i risultati dell'operazione di revisione che Pansa ha fatto in questi anni. Si parte dall'operazione Ventotene, dove fu portato dopo il 25 luglio del 43 Mussolini, che per ironia della sorte fu confinato nell'isola dove erano stati relegati molti esponenti comunisti. Nel libro viene ricostruito, dunque documentato, il clima di quegli anni, e in particolare viene sottolineato il ruolo egemonico assunto dal Partito Comunista in quei tragici mesi, trasceso in molti episodi sanguinari e in molte manifestazioni di intolleranza anche estrema, con gli omicidi nei confronti di chi comunista non era. Una testimonianza di quel clima è per esempio l'esperienza di una delle pagine più osannate, più omaggiate nell'epopea resistenziale, cioè la Repubblica di Montefiorino, un esperimento di autogestione che ebbe vita tra il 17 giugno e il 31 luglio 1944 sull'Appennino modenese, di cui Pansa coglie alcuni tratti in queste righe. Chi vide la Repubblica di Montefiorino nei giorni della grande illusione ebbe la sensazione di trovarsi dentro uno staterello comunista. C'era uno sfoggio impressionante di bandiere rosse, di fazzoletti rossi, persino di camicie rosse. Sui muri dei paesi occupati fiorivano scritte che inneggiavano all'Unione Sovietica, a Stalin, al proletariato vittorioso. Insieme alla faziosità politica trionfava la voglia di festeggiare senza pause quella che appariva una grande vittoria. Bastava entrare nel cortile della Rocca, sede del municipio, per sentirsi offrire dai partigiani pane, formaggio e vino. Chissà quel che pensavano di questo spreco i montanari dell'area di Montefiorino, abituati da secoli a combattere la fame e sempre molto attenti a non sprecare neppure una briciola di cibo. Ma spesso i garibaldini mostravano anche il loro lato violento, come capita ai giovani che hanno in mano delle armi. Nessuno era in grado di impedirgli le sparatorie continue in aria, soprattutto di notte. Erano il sintomo di un'indisciplina totale, invano fronteggiata dai comandanti. A volte ci scappavano dei feriti e anche qualche morto, subito dichiarato caduto in combattimento. la polizia partigiana esisteva soltanto sulla carta. Le giunte amministrative, costituite a Montefiorino e in altri comuni della zona libera, avevano le mani legate. Avrebbero dovuto occuparsi dell'arrivo dei viveri e di organizzare la vita civile, ma non possedevano nessuna autorità. Sopra di loro c'era il commissario politico, composto soltanto da comunisti, che aveva ben altro per la testa. Questa struttura si dedicava soprattutto ad affermare il potere delle Garibaldi, ossia del PCI. Il libro si conclude con il riconoscimento di Pansa per l'eroismo dei partigiani veri. Di questi partigiani, Pansa scrive, si gettavano tutto alle spalle, la famiglia, la casa, gli studi, l'amore di una ragazza, per entrare in un mondo alieno, feroce, povero, un pianeta gigantesco e sconosciuto. Erano un piccolo popolo di formiche senza paura che si muovevano circondate da un vuoto mai esplorato. Andavano alla ricerca di qualche briciola di libertà, ma potevano incontrare la morte più orribile per mano di altre formiche avversarie. Insomma, occorre superare, dice Pansa, i danni psicologici, oltre che quelli nella memoria collettiva rappresentate dalla guerra civile, una guerra, conclude il libro, che è una malattia mentale che obbliga tutti a combattere contro se stessi. L'altra ricostruzione storica riguarda l'uccisione di uno dei maggiori, più importanti esponenti del regime fascista, e cioè Giovanni Gentile, grande filosofo, ex ministro della pubblica istruzione e uno certamente degli esponenti più in vista del regime, che fu ucciso a Firenze il 15 aprile del 1944. L'assassino di Gentile è sempre rimasto circondato da un grande carattere di oscurità, soprattutto per le motivazioni e per la commissione. Chi volle veramente la morte di questo grande filosofo, certamente compromesso col regime fascista? Un grande intellettuale comunista, Cesare Luporini, aveva riconosciuto nel 1989, a proposito dell'omicidio Gentile, che ci sono cose che forse ancora non si possono dire. E proprio da queste parole parte l'indagine di Luciano Mecacci, che si intitola La ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni Gentile, pubblicato da Adelphi, 520 pagine, 25 euro. L'autore è stato docente all'Università di Firenze. Il libro di Mecacci non offre soluzioni al giallo, ma ci dà un'esplorazione di un mondo, quello sintetizzato appunto dalla espressione ghirlanda fiorentina, che si riferisce al mondo degli intellettuali fiorentini, antifascisti, dominati da un lato dal Partito Comunista e dall'altro soprattutto dal gruppo del Partito d'Azione. Mecacci avanza e rafforza un'ipotesi, quella secondo la quale Gentile sia stato ucciso perché artefice di una linea che andava nella direzione di una pacificazione nazionale, a capo della quale probabilmente Gentile avrebbe visto naturalmente se stesso. E quindi il libro segue due filoni, quello di cui si è spesso parlato, e cioè dei servizi segreti inglesi che a Firenze avevano particolari rapporti con il Partito d'Azione, e quello degli intellettuali comunisti che si distinsero per l'assoluto conformismo alla linea del partito anche nei mesi successivi all'assassinio di Gentile, quando si sarebbe potuta forse fare luce. E dunque Mecacci conclude parlando di concatenazioni di decisioni strategiche, ricorrendo all'immagine dei cerchi nell'acqua, per cui, scrive, si parte da un cerchio interno ristretto a coloro che presero inizialmente la decisione, da cui si irradia il movimento dei cerchi più periferici fino ad arrivare all'ultimo cerchio, quello dei gappisti, che infine produce l'onda distruttiva. E sugli intellettuali comunisti Mecacci è perentorio. Una cosa è certa, scrive, la morte di Gentile rinforzò un abito non infrequente degli intellettuali italiani: obbedire al diktat del proprio partito, autoassolversi, soddisfarsi delle vulgate, nel migliore dei casi tacere. Poco dopo la liberazione di Firenze, nell'ottobre 44, Montale definì galleggianti i passati e i futuri maestri che in qualche modo riescono sempre a salvarsi. E qui l'autore cita appunto Montale, concludendo il libro: quale educazione politica potrà venire a un popolo che ha simili maestri? La tragedia è che, personalmente, siamo tutti persone ineccepibili. Non si credeva, non si sapeva, non si voleva, e intanto la bufera è venuta. Così Montale. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il libro di Alessandro Golinelli, Una rivoluzione, pubblicato da Frassinelli, 340 pagine, 16,50 €. Troviamo nel romanzo un gruppo di italiani in un villaggio del Mar Rosso, nel pieno della rivoluzione del 2011. Sono praticamente sequestrati in questo villaggio e la rivoluzione non mancherà di lasciare un segno nella vita di ciascuno di essi. Poi vi segnalo un altro romanzo di Elisabetta Rasì, Non esistono cose lontane, pubblicato da Mondadori, 256 pagine, 19 €. E qui troviamo tanti personaggi cui i figli si riannodano nella protagonista Olga. E questo libro è anche un libro musicale per le frequenti evocazioni di canzoni di cui troviamo poi la lista in una sorta di indicazione discografica finale. Infine, di Elisa Fuxas, vi segnalo La figlia di. È pubblicato da Rizzoli, 18,50 €, 394 pagine. Questo è un libro definito non autobiografico, ma che ripercorre la situazione dell'autrice, figlia di un personaggio famoso. Nel libro è un intellettuale comunista, disagio tra molte contraddizioni, alle soglie di un grande cambiamento di vita. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione Fabio Cantadori, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro ancora buona Pasqua e vi do appuntamento la settimana prossima.